Ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Oggi, 5 novembre, inizio la mia cronaca. Annoterò tutto con la massima precisione possibile. Ma non so neppure se oggi sia veramente il 5 novembre. Nel corso dell'ultimo inverno ho smarrito alcuni giorni. Non sono in grado di dire che giorno della settimana sia. Credo però che ciò non abbia molta importanza. Devo basarmi su appunti succinti. Succinti perché non contavo mai di scrivere questa cronaca e temo che nel ricordo molte cose si presentino diverse da come le ho realmente vissute. Forse questo difetto è inerente a tutte le cronache. Non scrivo per il gusto di scrivere. Vi sono costretta dalle circostanze, se non voglio perdere la ragione. Non c'è nessuno che possa preoccuparsi o aver cura di me. Sono completamente sola. E devo tentare di sopravvivere ai lunghi, bui mesi dell'inverno. Non conto che queste annotazioni vengano mai trovate. Per ora non so nemmeno se lo desidero. Forse lo saprò quando avrò finito di scrivere questa cronaca. Mi sono imposta questo compito per impedirmi di fissare il crepuscolo e di avere paura. Perché ho paura. Da ogni lato la paura striscia verso di me e non voglio attendere che mi raggiunga e mi sconfigga. Scriverò fin quando annotta, di modo che questo nuovo, insolito lavoro mi affatichi la mente, la renda vuota e sonnolenta. Non temo il mattino. Solo i lunghi pomeriggi crepuscolari. Non so con precisione che ora sia. Probabilmente le 3 del pomeriggio. Il mio orologio è andato perduto, del resto non era di grande aiuto nemmeno prima. Un minuscolo orologio d'oro da polso. In fondo poco più di un giocattolo costoso che si rifiutava di segnare l'ora esatta. Posseggo un abiro e 3 matite. L'abiro è quasi esaurita e detesto scrivere con la matita. Lo scritto non risalta con chiarezza sulla carta. I sottili tratti grigi si confondono sullo sfondo giallognolo. Eppure non ho altra scelta. Scrivo sul rovescio di vecchi calendari e su della carta commerciale intestata ormai ingiallita. La carta delle lettere proviene da Ugo Rutlinger, un grande collezionista e ipocondriaco. In realtà, questa cronaca dovrebbe iniziare con Ugo. Poiché se non fosse per la sua smania di collezionare e la sua ipocondria, oggi non mi troverei seduta qui. Probabilmente non sarei più in vita. Ugo era il marito di mia cugina Louise, un uomo piuttosto facoltoso. La sua ricchezza derivava da una fabbrica di caldaie. Erano caldaie del tutto particolari che solo Ugo produceva. Sfortunatamente, sebbene me lo si è fatta spiegare fin troppo spesso, ho dimenticato in cosa consistesse l'unicità di quelle caldaie. Ma questo in fondo non c'entra niente. Ugo comunque era talmente ricco da doversi permettere qualcosa di eccezionale e così aveva acquistato una riserva di caccia. Avrebbe potuto ugualmente acquistare dei cavalli da corsa oppure un panfilo, ma Ugo aveva paura dei cavalli e gli veniva la nausea appena metteva piede su una barca. Anche la riserva di caccia la teneva solo per l'apparenza. Era un cattivo tiratore e gli ripugnava sparare a degli innocui caprioli. Invitava i suoi soci in affari e questi, insieme a Louise e al guardacaccia, si incaricavano di abbattere il numero di animali consentito, mentre lui, le mani conserte sul ventre, sedeva in poltrona davanti allo chalet sonnecchiando il sole. Era talmente affannato che si appisolava appena si metteva a sedere, un uomo obeso e gigantesco, tormentato da oscure angosce e assillato da troppe richieste. Gli volevo bene e condividevo il suo amore per il bosco e qualche giorno tranquillo nello chalet di caccia. Non gli dava fastidio se io gli girellavo attorno mentre dormiva in poltrona. Facevo brevi passeggiate e mi godevo la quiete dopo la confusione frenetica della città. Louise era una cacciatrice appassionata, un tipo sano, dai capelli rossi, che civettava con qualsiasi uomo le attraversasse la strada. Detestava occuparsi della casa, per cui era ben contenta che tra una cosa e l'altra mi prendessi un po' cura di Ugo, preparandogli la cioccolata e le sue innumerevoli misture. Ugo nutriva un'apprensione patologica per la propria salute, cosa che allora non riuscivo bene a capire, visto che la sua vita, dopo tutto, era un continuo affannarsi e il suo unico piacere un sonnellino al sole. Era ipersensibile e, a parte l'indubbia abilità negli affari, che dovevo premettere, timoroso come un bambino piccolo. Nutriva un grande amore per l'ordine e la perfezione e viaggiava sempre con due spazzolini da denti. Possedeva vari esemplari di ogni oggetto d'uso quotidiano e questo sembrava rassicurarlo. Inoltre era piuttosto colto, discreto e un pessimo giocatore di carte. Non ricordo di aver mai fatto con lui un discorso di qualche importanza. Talvolta azzardava un vago tentativo in quel senso, rinunciando sempre anzitempo, forse per timidezza, oppure semplicemente perché gli costava troppa fatica. D'altro canto, ciò mi stava bene, dopotutto ci saremmo solo sentiti a disagio. A quel tempo si faceva un gran parlare di guerre atomiche e delle loro conseguenze e ciò indusse Ugo a immagazzinare una piccola scorta di viveri e di altri oggetti indispensabili nel suo chalet. Louise riteneva quell'impresa completamente priva di senso e si arrabbiava, temeva che si sarebbe sparsa la voce attirando i ladri. Probabilmente aveva ragione, ma in queste cose Ugo sapeva tirar fuori un'invincibile ostinazione. Gli venivano i crampi allo stomaco e la tachicardia finché Louise non desisteva. La cosa, d'altronde, le era del tutto indifferente. Il 30 aprile i Rüttlinger mi invitarono ad andare nello chalet di caccia. Ero vedova ormai da 2 anni, le mie 2 figlie erano quasi adulte e potevo disporre del mio tempo come volevo. A dire il vero, facevo poco uso della mia libertà. Sono sempre stata di indole sedentaria e la casa era il luogo che meglio mi si addiceva. Tuttavia rifiutavo raramente gli inviti di Louise. Amavo quella casa e il bosco. Sopportavo quindi volentieri le 3 ore di viaggio in macchina. Anche quel 30 aprile accettai l'invito. Ci saremmo fermati 3 giorni e non erano previsti altri ospiti. Lo chalet, in realtà, è una villetta di legno a un solo piano, costruito con tronchi massicci, tuttora in buono stato. Al pian terreno c'è una grande cucina in stile rustico e accanto una camera da letto e una piccola stanza. Al primo piano, lungo il quale corre una veranda di legno, ci sono 3 piccole camere per gli ospiti. Mi sistemai in una di queste, nella più piccola. A circa 50 passi, lungo un pendio che degrada verso il torrente, si trova la casetta di legno del guardacaccia, poco più di una capanna consistente in un unico locale, e subito accanto, prospiciente la strada, un garage di tavole fatto erigere da Ugo. Viaggiammo dunque 3 ore in macchina e ci fermammo in paese per ritirare il cane di Ugo dal guardacaccia. Il cane, un segugio bavarese, si chiamava Lince. Sebbene appartenesse a Ugo, era stato allevato dal guardacaccia, che lo aveva anche addestrato, riuscendo stranamente a far sì che l'animale considerasse Ugo come suo padrone. A Louise comunque non dava retta e tantomeno le ubbidiva, tenendosi invece alla larga. A me dimostrava una benevola indifferenza, anche se gli piaceva gironzolarmi attorno. Era una bella bestia dal manto scuro d'un marrone rossiccio, un eccellente cane da caccia. Chiacchierammo un poco col guardacaccia e fu stabilito che la sera seguente avrebbe accompagnato Louise a una battuta. Si era messa in testa di sparare a un capriolo. Il periodo di divieto scadeva giusto il 1° maggio. Questa conversazione andò per le lunghe, come succede appunto in campagna, e perfino Louise, che di solito non riusciva mai ad accettare questo fatto, frenò la sua impazienza per non indisporre il guardacaccia di cui aveva assolutamente bisogno. Raggiungemmo lo chalet solo verso le 3. Ugo si mise subito a trasferire nuove provviste dal portabagagli dell'automobile nella camera accanto alla cucina. Io preparai il caffè sul fornello spirito e dopo la merenda, Ugo stava giusto per appisolarsi, Luise gli propose di riaccompagnarla in paese. Si trattava naturalmente di un'autentica cattiveria. Procedette però con grande abilità, affermando che un po' di moto avrebbe giovato alla sua salute. Verso le 4:30 riuscì finalmente a convincerlo e se lo portò via con aria trionfante. Sapevo che sarebbero finiti all'osteria. Luise amava la compagnia dei boscaioli e dei giovani contadini e non le passava mai per la mente che quegli scaltri ragazzotti potessero ridere alle sue spalle. Sgombrai il tavolo e appesi i vestiti nell'armadio. Una volta finito, andai a sedere al sole sulla panca davanti alla casa. Era una bella giornata calda e secondo il bollettino meteorologico il tempo sarebbe rimasto sereno. Il sole sovrastava obliquo gli abeti, prossimo al tramonto. Lo chalet si trova in una piccola conca al termine d'una gola, tra ripidi monti scoscesi. Mentre me ne stavo così seduta a godere quell'ultimo tepore sul viso, vidi tornare Lince. Doveva aver disobbedito a Luise e lei, per punirlo, lo aveva rimandato a casa. Era evidente che lo aveva sgridato. Si avvicinò guardandomi con aria afflitta e mi posò il muso sulle ginocchia. Restammo seduti così per un pezzo. Lo accarezzai, cercando di consolarlo, perché sapevo benissimo che Luise aveva un modo tutto sbagliato di trattare il cane. Quando il sole scomparve dietro gli abeti, si fece fresco e delle ombre azzurrognole calarono nella radura. Entrai in casa con Lince, accesi la grande cucina economica e incominciai a preparare del riso con carne. Non ero affatto tenuta a farlo, ma avevo fame e sapevo che Ugo avrebbe preferito un vero pasto caldo. Alle 7 i miei ospiti non erano ancora tornati. Era d'altronde quasi impossibile. Calcolai che non sarebbero rientrati prima delle 8:30. Diedi dunque da mangiare al cane, consumai la mia parte di riso e infine, al chiarore del lume a petrolio, lessi i giornali che Ugo aveva portato con sé. Il tepore e il silenzio mi fecero venire sonno. Lince si era ritirato nella nicchia della stufa e sbuffava soddisfatto tra sé. Alle 9 decisi di andare a letto. Chiusi la porta e mi portai la chiave in camera. Ero talmente stanca che mi addormentai subito, malgrado la trapunta fredda e umidiccia. Mi destai perché il sole mi batteva in faccia e subito ricordai la sera precedente. Poiché avevamo una sola chiave di casa, l'altra la teneva il guardacaccia, Luise e Ugo avrebbero dovuto svegliarmi al loro ritorno. Mi precipitai giù per le scale ancora in vestaglia ad aprire la porta d'ingresso. Lince mi accolse con un guaito impaziente e sgusciò fuori all'aperto. Andai in camera da letto, sebbene fossi certa di non trovarvi nessuno. La finestra poi era provvista di inferriate e Ugo non sarebbe comunque riuscito a passare da una finestra anche senza sbarre. I letti, naturalmente, erano intatti. Erano le 8. I due erano evidentemente rimasti in paese. Ne fui molto stupita. Ugo detestava i corti letti delle locande e non mi sarebbe mai mancato di riguardo al punto da lasciarmi sola in casa per la notte. Non riuscivo a spiegarmi cosa fosse accaduto. Tornai in camera mia per vestirmi. Faceva ancora freddo e sulla Mercedes nera di Ugo brillava la rugiada. Per scaldarmi un poco preparai del tè. Poi mi incamminai verso il paese con Lince. Notai appena il freddo umido nella gola, perché mi arrovellavo il cervello su cosa potesse essere accaduto ai Rüttlinger. Forse Ugo era stato colpito da una crisi cardiaca, come succede quando si ha a che fare con gli ipocondriaci. Avevamo smesso di prenderlo sul serio. Accelerai il passo mandando avanti Lince, che partì abbaiando di gioia. Avevo scordato di calzare le scarpe da montagna e nel seguirlo incespicavo maldestramente sulle pietre aguzze. Quando infine raggiunsi lo sbocco della gola, udii Lince mugolare per il dolore e lo spavento. Girai attorno a una catasta di legna che mi ostruiva la vista e lì trovai il cane seduto che gemeva. Dal muso gli colava della bava rossa. Mi chinai su di lui e lo accarezzai. Si strinse al mio fianco tutto tremante, gemendo di dolore. Forse si era morsicato la lingua, oppure si era spezzato un dente. Come lo esortai a seguirmi in avanti, serrò la coda tra le gambe e mi si parò innanzi respingendomi col corpo. Non riuscivo a vedere cosa lo spaventasse tanto. In quel punto la strada usciva dalla gola e, per quanto potessi scorrerla con lo sguardo, si snodava pacifica e deserta nel sole mattutino. Con un gesto irritato spinsi da parte il cane e proseguì da sola. Per fortuna avevo rallentato l'andatura, impedita com'ero dal cane, perché, dopo pochi passi, urtai con violenza la fronte e indietreggiai barcollando. L'ince riprese subito a guaire e a stringersi contro le mie gambe. Sconcertata, allungai una mano e toccai qualcosa di freddo e di liscio. Una resistenza gelida e levigata, in un punto in cui non poteva esservi altro che aria. Riprovai una seconda volta, esitando, e di nuovo la mia mano si posò come sul vetro di una finestra. Poi udii un battito forte e mi guardai attorno, prima di capire che era il pulsare del mio cuore a rimbombarmi nelle orecchie. Il mio cuore si era spaventato ancora prima che io mi rendessi conto. Sedetti sul tronco di un albero lungo il bordo della strada e tentai di riflettere. Non ne fui capace. Pareva che tutti i pensieri mi avessero di colpo abbandonato. L'ince si avvicinò strisciando e la sua bava sanguinolenta mi gocciolò sul cappotto. Lo accarezzai fin quando non si fu calmato. Poi guardammo entrambi verso la strada che si snodava calma e scintillante nella luce del mattino. 3 volte mi alzai per convincermi che lì, a 3 metri di distanza, ci fosse veramente qualcosa di invisibile, freddo e liscio a impedirmi di proseguire il cammino. Pensai ad un'allucinazione. Ma sapevo benissimo che non poteva trattarsi di nulla di simile. Avrei preferito accettare un po' di follia piuttosto che quella terribile cosa invisibile. Ma c'era l'ince, col suo muso sanguinante, c'era il bernoccolo sulla mia fronte che cominciava a dolere. Non so per quanto tempo rimasi lì seduta sul tronco, ma ricordo che i miei pensieri continuavano a ruotare attorno a cose marginali, quasi si rifiutassero a tutti i costi di afferrare quell'incomprensibile esperienza. Il sole salì più alto nel cielo e mi scaldò la schiena. L'ince continuava a leccarsi e infine smise di sanguinare. Non poteva essersi ferito gravemente. Mi resi conto di dover prendere un'iniziativa e ordinai all'ince di restare lì seduto. Quindi mi avvicinai cautamente all'ostacolo invisibile con le mani protese, palpandone la superficie fin quando urtai contro l'ultima rupe della gola. A quel punto non mi fu più possibile proseguire. Dall'altro lato della strada arrivai fino al torrente e solo allora mi accorsi che l'acqua ristagnava un poco, straripando dagli argini. Nel torrente, tuttavia, l'acqua era scarsa. Non aveva piovuto per tutto aprile e il disgelo era già terminato. Dall'altra parte della parete, mi sono abituata a chiamare quella cosa la parete, dovevo pur darle un nome qualsiasi una volta che c'era, dall'altra parte della parete, dunque, il greto del ruscello per un breve tratto era quasi secco. Poi l'acqua riprendeva a scorrere in un rigagnolo. Doveva essersi già scavata un varco attraverso la porosità della roccia calcarea. La parete non poteva quindi affondare molto nel terreno. Un fuggevole senso di sollievo mi percorse come un brivido. Non mi andava di attraversare il ruscello stagnante. Era poco probabile che la parete terminasse improvvisamente, altrimenti per Ugo e Luise sarebbe stato facile tornare. Di colpo notai ciò che forse mi aveva inconsciamente tormentato fin dall'inizio. La strada era completamente deserta. Qualcuno avrebbe dovuto dare l'allarme da un pezzo. Sarebbe stato naturale trovare i paesani incuriositi assiepati davanti alla parete. Anche se nessuno di loro l'avesse scoperta, Ugo e Luise avrebbero dovuto cozzarci contro. Che non si vedesse una sola persona mi parve ancora più enigmatico della parete stessa. Nella chiara luce del sole incominciai a tremare dal freddo. La prima piccola cascina, poco più di una baita, si trovava subito dopo il tornante successivo. Attraversando il torrente e risalendo per un breve tratto il prato alpino, avrei dovuto vederla. Tornai da Lince per rassicurarlo. Il cane in realtà era molto giudizioso, ero io ad aver bisogno di incoraggiamento. Tutto a un tratto la presenza di Lince mi infuse un gran conforto. Mi sfilai scarpe e calze e attraversai a guado il torrente. Dall'altra parte la parete si estendeva fino all'inizio del prato. Infine fui in grado di vedere la baita. Giaceva tranquilla nella luce del sole, un'immagine familiare e serena. Un uomo stava ritto davanti alla fontana, la mano destra arcuata a mezza via tra il getto d'acqua e il volto. Un uomo vecchio, dall'aria curata. Le bretelle gli ciondolavano lungo il corpo simili a serpi e aveva le maniche della camicia rimboccate. Ma la sua mano non raggiunse il volto. Quell'uomo non si muoveva affatto. Chiusi gli occhi e attesi. Poi ripresi a guardare in quella direzione. Il vecchio, dall'aspetto curato, stava sempre immobile. Allora vidi pure che si appoggiava con le ginocchia e la mano sinistra al bordo della vasca di pietra e forse per questo non cadeva. Accanto alla casa c'era un giardinetto dove fra le peonie e le dicentre crescevano erbe aromatiche. Vi si trovava anche un esile cespuglio di lillà già sfiorito e tutto arruffato. Aprile era stato caldo, quasi sembrava estate perfino quassù in montagna. Anche in città le peonie erano già sfiorite. Dal camino non saliva fumo. Picchiai i pugni contro la parete. Mi feci un po' male, ma non accadde nulla. E all'improvviso non ebbi più alcun desiderio di infrangere quella parete che mi separava dall'incomprensibile evento che aveva sopraffatto il vecchio alla fontana. Con molta prudenza riattraversai il ruscello e tornai da Lince, che stava annusando qualcosa e pareva essersi scordato lo spavento. Era un uccello morto, un picchio muratore. Aveva la testolina sfracellata e il petto macchiato di sangue. Quel picchio muratore fu il primo d'una lunga serie di piccoli uccelli che in una radiosa mattina di maggio si erano così imbattuti in una misera fine. Per qualche motivo non riuscirò mai a dimenticarlo. Mentre lo stavo osservando, notai finalmente le strida di lamento degli uccelli. Dovevo averlo udite già da un pezzo, prima di rendermene conto. Tutto un tratto, desiderai solo abbandonare quel luogo, tornare allo chalet, allontanarmi dalle strida angosciate e dai minuscoli corpi imbrattati di sangue. Lince s'era fatto di nuovo irrequieto e guaiva stringendosi a me. Durante il ritorno lungo la gola non si staccò dal mio fianco e io gli parlai per cercare di calmarlo. Non ricordo più cosa gli dissi. Mi sembrò solo di dover rompere il silenzio in quella gola umida e buia, dove la luce verdognola filtrava tra il fogliame dei faggi e piccoli rivoli scorrevano lungo le nude rocce alla mia sinistra. Eravamo capitati in una brutta situazione, Lince e io, e a quel tempo non sapevamo quanto fosse brutta. Ma non eravamo del tutto perduti, perché eravamo in due. Lo chalet si trovava ora in pieno sole. La rugiada sulla Mercedes era evaporata e il tetto scintillava d'un nero quasi rossiccio. Qualche farfalla svolazzava nella radura, da dove incominciava a salire un odore dolciastro di aghi da abete caldi. Andai a sedere sulla panca davanti alla casa e immediatamente quanto avevo visto nella gola mi sembrò assolutamente irreale. Era semplicemente impossibile. Simili cose non potevano succedere. E se fossero poi veramente successe, non si sarebbero verificate in un piccolo paese alpino, non in Austria e non in Europa. Mi rendo conto di quanto fosse ridicolo questo pensiero. Ma visto che è esattamente ciò che pensavo, non voglio tacerlo. Rimasi seduta al sole, immobile, osservando le farfalle e credo di non aver pensato proprio a niente per un pezzo. Lince era andato a bere alla fontana, poi saltò sulla panca accanto a me e mi posò la testa sulle ginocchia. Questa manifestazione di simpatia mi rallegrò, finché mi venne in mente che quel povero cane non aveva altra scelta. Dopo un'ora entrai nello chalet e scaldai gli avanzi del riso e della carne per Lynch e per me. Poi preparai del caffè per schiarirmi le idee e nel frattempo fumai 3 sigarette. Erano le mie ultime sigarette. Ugo, da quel robusto fumatore che era, ne aveva inavvertitamente portati con sé 4 pacchetti nella tasca del cappotto e non aveva ancora fatto in tempo a immagazzinare nello chalet la scorta per un eventuale dopoguerra a venire. Una volta fumate le 3 sigarette non resistetti più a lungo in casa e tornai un'altra volta nella gola con Lynch. Il cane mi seguì senza entusiasmo, sempre incollato ai miei calcagni. Feci quasi tutta la strada di corsa e mi fermai senza fiato solo quando spuntò la catasta di legna. Allora proseguì lentamente, con le mani protese, fino a toccare la superficie fredda della parete. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlene Haushofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.